49. Riso con zucchini. Prendete zucchini piccoli, del peso del riso che avrete a cuocere, e tagliateli a tocchetti grossi quanto le nocciuole. Metteteli a soffriggere nel burro, conditeli con sale e pepe e rosolati appena, gettateli così durettini nel riso, quando sarà arrivato a mezza cottura, onde finiscano di cuocere insieme. Il riso è bene che resti poco brodoso e gli zucchini non si devono disfare. Invece di brodo potete servirvi di acqua e farlo asciutto, ma allora dategli grazia con salsa di pomodoro numero 125. Versatela anch'essa nel riso a mezza cottura e con parmigiano.